cambio canale, vado a sette zapping che dicono meno cazzate di te, va. Mi sento zapping, certo. Ciao, Lucia. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. I'm a real wild one. Wild, wild, wild. Well, I'm just out of school. I thought it would be cool. Gotta dance like a fool. Got the message that I gotta be a wild one. Ma io non capisco perché alcuni vengano alla zanzara, perché voi siete degli stronzi, due amichevoli stronzi che fanno bene il loro mestiere, quindi avete rovinato più carriere voi, però la zanzara ha fatto parecchie vittime. Stronzate dal fine settimana, popolo della radio, popolo della zanzara, stronzate dal fine settimana. Iniziamo subito con la stronzata galattica, la stronzata massima, massima, quella detta dal signor Grillo, Parenzo, oh, dal signor Grillo. Pro, è normale. Preparati. È normale, ovunque. Cosa ovunque? Ovunque non si fanno le mammografie, dici? C'è il cancro dappertutto, vabbè, ovunque, no. Normale, no? Allora, la stronzata massima di Grillo è questa qua. C'è qualcuno qui nella nostra trasmissione che ha votato, credo, il signor Grillo. Tra di qualcuno in questa zanzara ha votato Grillo. Sì, non io, sono io ho votato Grillo. Chi sì. è, secondo voi? Chi è? Sì, non ho votato Grillo. Ma... chi è i sondaggi di lì, della zanzara? Allora, la cosa è molto semplice. Grillo sì. attacca il professor Umberto sì. Veronesi, come sapete, famoso medico, oncologo. Chirurgo, oncologo, sì. eccetera, scienziato eccetera. Scienziato di fama. Specializzato. Nel curare soprattutto il cancro alle mammelle, al seno soprattutto. Anche mia madre, per esempio, è andata lì qualche volta a farsi visitare. Adesso dico una cosa che riguarda la privacy, ma insomma, per dire bene. Che è andata lì dal professor Veronesi a farsi visitare. Niente, non si è curata con delle erbe. No, non si è curata con delle erbe, non si è curata con la medicina, la famosa medicina naturale. La famosa medicina naturale. Erbe. Va bene, erbe. Professor Veronesi contro Grillo. Non è la prima volta, come sapete, c'è un conflitto mondiale tra i due. Tra Grillo e Veronesi, soprannominato da Grillo più volte Cancronesi, per la questione degli inceneritori, perché Veronesi dice di essere a favore degli inceneratori per la immondizia, no? E Grillo invece è contrario. Vabbè, ve la riassumo così. Stavolta Grillo ha detto che sostanzialmente Veronesi fa fare più mammografie alle femmine, alle donne, perché ci guadagna, perché è sponsorizzato dalle aziende che gli servono, gli vendono i macchinari. Pua. Sentiamo, Pua. Questo, stai sputando su Grillo. Stai sputando su Grillo. Sulle idee di Grillo. Allora capisci che Veronesi va in televisione a dire che bisogna fare le mammografie perché la General Electric che fa i mammografi probabilmente gli dà una sovvenzione nella sua fondazione. Allora capisci perché hanno questi comportamenti. Allora quando ci sono e si realizzano i conflitti di interessi li fermi e dai delle multe di miliardi di dollari come fanno negli Stati Uniti. Bravo! Adesso voglio dire, o uno ha le prove che il professor Veronesi truffa la gente, facendogli fare una mammografia anche quando questa mammografia non è necessaria, oppure te stai zitto. No, questa è la mia regola. Ma in Germania anche si oppure fai ovunque, oppure fai la zanzara. Cioè, oppure fai come noi la zanzara, che possiamo dire il cazzo che ci pare. No, la zanzara no? È molto più seria del signor Grillo. Vabbè, adesso. Oh, Picuarello. Grillo Cancronesi, va. Senta, professore Veronesi, che cosa esce da un camino di un inceneritore? Fanno male questi benedetti inceneritori? E vedere illuminare nel cancro l'uomo d'affari del cancro, il Cancronesi, il professor Cancronesi, che fa questo gesto e dice da un camino di un inceneritore esce zero. Ha Vabbè, insomma, vi chiedo subito con chi state, naturalmente. Adesso molti grillini chiameranno dicendo che ha ragione Grillo, che in realtà... perché la, uno dei dirigenti, uno dei parlamentari di punta di Grillo, credo il capogruppo alla Camera, non so, dice che è stato tutto stravolto. Che non, Di Maio. Che Grillo, no, Maio. No, no, no, non mi ricordo. Quello Di Maio, presidente, che c'entra. Sì, un altro, Toninelli, mi sembra, del Movimento 5 Stelle, dice in sostanza che cosa? Che tutta questa cosa è stata montata dalla stampa, non so da chi, per coprire Gomorra. Voi, in campagna nel voi, PD. Voi giornalisti della Radio 24, Sole 24 Ore. Ma che c'entra? Il complotto di Squinzi ha telefonato ovunque, nelle redazioni. Avete coperto tutto. Ma cosa abbiamo per coperto? Gomorra. Siete Gomorra, siete emorroidi della democrazia dell'informazione. Dai, su. Siete morti, morti. Senti, io non lo vorrei mettere, ci sono tante altre cose di cui parlare, forse più serio, forse no, non lo so, però è una delle cose più forti che ho sentito negli ultimi due giorni, una delle cose più, no, gli animalisti, io non ce la fa, è stupendo, è stupenda questa cosa qua, si chiama Montanini, Giorgio Montanini, io lo adoro, è un comico su Rai 3, su Comedy Central, eccetera, eccetera, e riesce a dire quello che io vorrei dire ogni giorno. Senti questa cosa sugli animalisti che mettono il cappottino al cane. Sembrano come noi, gli animalisti. Li riconoscete a dicembre perché portano il loro cagnolino e gli mettono il cappottino d'inverno. E tu dici, cazzo, perché ridicolizzi il tuo cane in questa maniera? Vaffanculo, non c'ha bisogno di questa cosa. Ah, perché non lo sai, il mio cane, se no, sente? Sente? Freddo! Io ho detto, scusa, come ha fatto la razza canina a cambare decine di migliaia di anni senza di te? Scienziato, eh? Il cappottino al cane! Tu non sì, l'hai sentita? Quello, non l'ho mai sopportato neanche. Senti, la, io quando vedo quella gente col cappottino al cane, no, è vero, vorrei è vero. Andare là e fare una strage. Una strage di animali e di padroni. No, stragi e di padroni. Mai, però... No, è chiaro che è un istinto, così, un raptus. So. Tra l'altro, il raptus, come la scusa che ha dato il tizio che ha stuprato quella nel taxi, no? Mi è preso un raptus. Ma che vuol dire ti è preso un raptus? Cioè, ma che vuol dire la parola raptus? No, no, scusate. Mi è preso un raptus. Ma è non è vero che ti è preso un raptus, tra l'altro, perché l'hai portato in giro per mezza Roma. Sei arrivato sotto casa tua, senza il genio, no? È arrivato sotto casa sua. Questo da questa cosa si deduce che non è proprio un criminale, ma comunque un cretino. Beh. Cioè, oltre che ovviamente uno stupratore. Uno stupratore, sì, no, uno stupratore l'ha portata lì, dopodiché gli ha dato un cazzotto nel naso. L'ha immobilizzata. Ma dov'è il raptus? Non c'è nessun raptus. Cioè, dall'inizio hai pensato di stuprarla. Imbecille, criminale. Questo non credo. No, no, come no, no questa no, volta credo. Credo tra l'altro, criminale. Su un giornale di Roma, Il Tempo, c'è il direttore che scrive addirittura buttate la chiave. Adesso questo non lo so, è stato lui, buttate la chiave. Beh, adesso buttate la chiave, verrà processato e condannato. Buttare la chiave, vabbè, che con questi chiari di luna in Italia, dove addirittura quello che ha sterminato la famiglia, come si chiama, Carretta, no? Ha sterminato la famiglia, fra poco tornerà libero. Dopo tornerà libero, ma ho capito, libero, cioè anni. Sterminato la famiglia e tra l'altro non solo, ha ereditato pure un po' di denaro. Cioè, ma è una cosa incredibile, ha ereditato case e denaro che sono i motivi per i quali ha ammazzato la famiglia, cioè ha sterminato la famiglia, sterminata. Si è fatto 20 anni di carcere, gli hanno dato credo di infermità mentale, esce e vivrà tranquillo con i soldi presi grazie all'ammazzamento di tutti. Ma dai, è una cosa veramente, solo in Italia può succedere una cosa del genere. Se tu ammazzi la famiglia, tutta la vita in galera devi stare, ma almeno già esce a 75 anni col catetere in mano e con le flebo, cioè giusto quello, altrimenti io non capisco questa cosa qua. Ma continuiamo con gli animalisti e con Montanini, sentite questa cosa sull'agnello, vai. Stanimalari, perché mi piace che sono quelli che anche sì, l'animalari, mi piace perché hanno sta patologia. Verso Pasqua su Facebook iniziano a mettere foto degli agnellini. Sti rivoluzionari da tastiera. Basta con la Pasqua di sangue, basta ammazzare gli agnelli, e mette sta foto e sta agnellino cotonato, bianco latte, si vede che non hanno mai visto un agnello vero, perché l'agnello è sporco de merda, de terra, deve... Non è come lo disegnate voi l'agnello. L'agnello fa schifo al cazzo se tu lo vedi in giro. È buono da magna, ma è brutto a vedesse. Non lo riconosci il agnello da una capra, non si riconosce. Perché è sporco di merda come la madre, è uguale. Però lo mette tutto cotonato, dice, oh, ma però. Basta! Mai messa una foto di un maiale a dicembre, però. Basta con la strage dei porci a Natale, eh? Mai, perché? Perché lo maiale è più brutto, diciamo la verità. È una questione estetica. Ah, è così, ragazzi, ci sono queste foto con gli agnellini in mano, sono tutte foto candide, no, di questi agnellini, in realtà sono animali come gli altri. E poi perché non utilizzate i porci tutti luridi, sporchi, melmosi, schifosi per le vostre campagne, eh? Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh? No, no, ma su questo voglio sentire subito Paolo dalla provincia di Alessandria. Vai, Paolo, Paolo. Paolo, ciao, sono Beppe, sono Paolo. Dimmi, dimmi. Senti, vi devo mandare a fanculo, a te in particolare. Che vuoi? Ti devo mandare a fanculo subito. O prima, che comincio a prima che comincio a parlare, perché? Allora, ti mando a fanculo, ciao Beppe, ok? Vabbè, allora? Tu mi devi spiegare. Ma tu lo sei o lo fai? Perché non credo che sei così stupido e ignorante da non capire che cosa ha voluto dire il tuo nemico pubblico. No, non è, non è il mio nemico pubblico, sarà il tuo amico invece. No, Beppe, senti Beppe, ti ritengo una persona intelligente. Ha semplicemente detto che quel fenomeno che ritieni tu che sia un fenomeno, premio Nobel, per me è un emerito bandito, ok? Cioè un bandito veronesi secondo te, un bandito. Ma questo è pazzo. Per me sì. Ma perché per un bandito? Sì. Spiegami. Ma bandito sei tu, bandito. Io perché sono io bandito scusa, ma perché dovrebbe essere un bandito veronesi, che è un luminare, uno scienziato incredibile, che salva un sacco di vite, imbecille. Ma che cosa mi fai dire? Ah no, vabbè, non salvo, ammazza la gente allora, ammazza la gente. Ma che cazzo? No, non buttarla sulla cacciara, ammazza nessuno, sta parlando di ammazza la gente. Hai detto che è un bandito, hai detto che è un bandito. Se tu mi vuoi parlare che lui cura, vabbè, ma che vuoi? Spiegami, spiegami che cosa vuoi, dimmi. Se tu mi vuoi dire che il fenomeno non ha degli sponsor, allora tu non capisci un cazzo, hai capito? Perché abbiamo semplicemente ma metti che sia di sponsor, ha degli sponsor. Ma la ricerca scientifica vive anche di quello, somaro d'un somaro. Somaro, scusa, fermi tutti, Paolo. Io non ho capito una cosa. Ogni volta, Paolo, stiamo dicendo che abbiamo soltanto sentito bene con l'orecchia. Si è parlato di sponsor. Se tu adesso mi neghi che la sanità pubblica non fa operazioni fasulle, che non ha sponsor, che non compra macchinari, ma io non ho detto per curare il tuo cervello malato, che non compra macchinari per comprare il tuo cervello malato e poi non li usa. Sono vecchi, chiuso in una stanza, se tu neghi questo, te e il tuo amico siete degli degli asini senza coda. Senti Paolo, il punto è uno solo. Allora, che ci siano interessi delle grandi a parte che le domande le faccio io. Le fai tu, vabbè, dai, giornalista, dai, non è una questione di essere giornalista o no. Paolo, devi stare tranquillo. Voi avete, tu probabilmente sei un tifoso, militante, non so, dei 5 Stelle. Io sono un tifoso di un cazzo, io sono, sai cosa ti dico? Sono uno che ne ha i coglioni pieni. Tu mi puoi portare Paolo, basta che mi mandi via sta corruzione. Sì, vabbè, ma lascia perdere, ho capito. Adesso Veronesi è diventato il simbolo della corruzione. Allora, il punto fondamentale è un altro. Perché ogni volta Grillo ogni volta Grillo dice una cosa e tre secondi dopo, quando l'ha sparata grossa, quando l'ha sparata grossa, dice no, ma io non volevo dire che volevo semplicemente descrivere il fenomeno. Ma adesso risentiamo Grillo. Risentiamo questo, lo sentiamo bene. Ha detto chiaramente Paolo, ha detto benissimo che se non parli in questo modo, ma smettila, parlavi di lui. Ha detto non è che uno deve dire una castronata per forza. Guarda che la fiera dei somari è a settembre, sai. La fiera dei somari è a settembre. Ha detto che c'è uno sponsor. No, non ha detto solo questo. Ha detto anche che c'è un eccesso di analisi che fa grazie allo sponsor e che alcune di queste analisi. Ma ho capito, ma se uno fa delle accuse poi deve portare le prove, le carte. Grillo non è Cruciani, Grillo non è Paolo dalla provincia di Alessandria. Che neanche la magistratura riesce a trovare le parole, non mi rompere i coglioni. Tu, con la tua morale, pensi che non sia così? Ma che c'entra la morale? Rispondimi. Ma io non lo so se è così. Rispondimi. Ma non c'entra nulla. Senti, allora, Paolo, tu sai benissimo, tu e Parenzo, che con la tua morale è pura e sacrosanta verità. Va bene, Paolo. Cazzo, grazie. Abbiamo visto che fanno l'operazione al cuore che non sono da fare, tu vuoi rompere i coglioni. Va bene, ciao. Cristiano Prato. Buona trasmissione, grazie. Cristiano Prato, vai. Ciao, Cruciani, grandissimo, buonasera. Dimmi, vai. Intervengo sul fatto dei cappottini. Io sono un negoziante e li vendo e sono anche un animalista convinto, nel senso che adoro gli animali, adoro i cani, eccetera, eccetera. Non c'è niente, assolutamente niente di male nel mettere un cappottino, sì, al cane. Amico mio, quello fa il comico, il signor Montanini. No, ho capito. Meraviglioso, umbro come me, lo adoro. Fa il comico, fa il comico. Ognuno ha i suoi gusti. A me un cane col cappottino mi fa orrore. Mi fa orrore, chiaro? Mi fa schifo, mi fa orrore. Vabbè, ma è un gusto. Che me ne frega a me? È una cosa di gusto. Non è importante, non è fondamentale. Ma io non ho capito qual è il problema, Cristiano, non ho capito. No, nessuno, non ce ne sono problemi. Dicevo che non capivo l'accanimento, il termine giusto. Ma non c'è accanimento. Forse, ma da quanto tempo è che senti la zanzara, Cristiano? Non ho capito. Da sempre. Da sempre, benissimo. Da sai tu. Come siamo fatti noi, no? Mettiamo una cosa divertente, come quella là, sui cappottini dei cani. Ma tu che fai? Che fai? Marketing? Cioè, c'hai un negozio di cappotti dei cani? No, anche è interessante. E che cappottini ci consigli per questo giorno invernale? Quali sono i cappottini dei cani che vanno più di moda? Sì, questo è interessante. Di tutti i tipi. No, dimmene uno. Ma anche i calzini ci sono, visto adesso, per tutto i cani. Tutto c'è. Ma quelle sono cose più per praticità che per calzini per i cani. Amico mio, calzini per i cani. Come calzini per i cani? Ma tu ascoltami, porti fuori un cane, porti fuori d'inverno che piove, devi rientrare in casa. Scusa, ma tempo fa quando non c'erano queste cose, quando non c'erano queste cose, che si faceva? Non c'era perché quando non c'era il vetro elettrico alla macchina, come facevi? È una comodità a Cruciani, è così. Vabbè, cioè, Cristiano, calzino ciao. Per il cane, Gabriele, provincia di Grosseto, vai Gabriele, forza. Sì, ciao, buonasera a tutti. Dimmi Gabriele, vai. Allora, niente, è il momento della riscossa, ragazzi, cioè, di che? Riscossa di chi? Di chi poi? Guardate, quale riscossa? Di tutti noi, di quelli che. Sì, vabbè, Gabriele, però parlaci di una cosa concreta, altrimenti ti mando a fare in culo. Dai, anche forza. Questa di Grillo, non mi manda a fare in culo. Non serve. Allora, dimmi una cosa concreta. State guardando il dito e non la luna. Ah, ecco, Grillo, vuoi parlare di Grillo? Meno male. Stiamo guardando il dito e non la luna. Grillo ha detto una stronzata, punto. Grillo ha detto una stronzata, perché se tu accusi Veronesi di essere un truffatore, se accusi Veronesi di essere un truffatore. Vabbè. Ma stai intruppandoti in un ragionamento che non è quello che serve. Quello che serve è guardare oltre e guardare che se uno entra dentro un ufficio di un avvocato e gli spara, è chiaro che è una follia, è chiaro, ma guardare oltre serve anche che a significa che ci sono delle aziende farmaceutiche che ci marciano su queste cose, è probabile che sia così, ma questo okay, ma dillo, fai un'inchiesta, serve. Non è che attacchi quello, sta per cercando un metodo per far sì che queste cose vengano fuori, cioè pubblicare su un sito, semplicemente un medico riscuote dei soldi, bisogna che siamo motivati, è questo il metodo, è questo che devi sottolineare. Va bene, ho capito benissimo, ho capito. Davide, è giunto il momento, non so di che cosa. Davide da Latina, continua a dire è giunto il momento. Intanto ti segnalo che Forza Italia ha preso, credo a Bolzano, il 3,6%, amico mio, visto. Poco più del 4% in Trentino. Forza Italia sta finendo, crollando, tutto finito. Davide Latina, vai. Sì, ciao, salve a tutti gli ascoltatori, ragazzi. Sì, no, salve gli ascoltatori, non lo devi fantastica. Dire mai più, vai veloce. Vado avanti, volevo dire soltanto che Grillo, oltre a quello che avevi detto tu, giustamente, aveva aggiunto anche che c'era un problema di trasparenza. Cioè le sovvenzioni che venivano dati a questi comunque Veronesi e compagni e anche partiti politici hanno mancanza di trasparenza. Vabbè, se non è trasparente secondo me lo sono, se non sono trasparenti i finanziatori di Veronesi va benissimo che siano trasparenti, ma non è quello che ha detto Grillo, è un'altra cosa. Grillo ha detto che Veronesi ci marcia. A dopo. Senti, ti devo mandare a fanculo subito prima che incominci a parlare, perché allora, ti mando a fanculo, ciao Beppe, ok? Flash, flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La zanzara. Le fai tu, vabbè, dai, giornalista, dai, la radio la fai tu, sei tu il fenomeno, parli tu, ok. Sì, ma dai, fatti bravi. Allora, c'è troppa gente in Italia, caro Parenzo, che annuncia il suicidio, almeno ammazzatevi dopo, no? Cioè, lo dite e fatelo. Cioè, ma se che uno... dici? No, ma per dire, uno annuncia il suicidio, ma no? Ma che gente, è una disperazione, no? Ho capito, se tu annunci, c'è troppa gente che grida al lupo per ottenere lupo, magari qualche cosa. Per carità, adesso molti si incazzeranno, ma non è quello il punto. È che tu non puoi dire penso al suicidio, perché se poi lo dici, deve succedere qualcosa. Ma come deve? Speriamo di no, no, scusa. Certo, speriamo sempre di no. Però... è una chiamata di aiuto, no? È un urlo, un urlo di un appello a, comunque, al mondo, agli amici. L'ultimo è Leopoldo Mastelloni. Poi, Leopoldo Mastelloni, il quale una volta venne da noi e disse delle cose su Napoli e poi fu tormentato da media napoletani, non solo da media napoletani, insultato anche su Facebook, sui social media, come si dice. E stavolta dice: ho una pensione da fame, penso sempre più spesso al suicidio. Allora ti leggo attentamente, vi leggo attentamente, voi che siete in collegamento e che magari prendete anche voi una pensione bassa oppure siete incazzati per altre cose. Il signor Leopoldo Mastelloni, che è un artista, un grandissimo artista, uno dei più grandi degli ultimi anni, degli ultimi 20-30 anni in Italia, cosa dice? Dopo 50 anni di lavoro e di contributi prendo 625 euro di pensione al mese. Se non avessi degli amici che mi aiutano a pagare l'affitto, prenderei 40 pillole di sonnifero e me ne andrei via. Ci penso sempre più spesso a farla finita. E vabbè, d'accordo. Sono ridotto sul lastrico e ho una casa in affitto solo grazie all'aiuto di alcuni cari amici che mi prestano dei soldi. Poi si lamenta per il fatto che dopo 50 anni di contributi prende solamente 625 euro, ma da questo punto di vista si lamentasse con la sua cassa di previdenza, non so dove ha versato questi cosi, non credo che gliel'abbiano rubati. Dice di aver fatto richiesta per la legge Bacchelli, la famosa legge che dà sostegno agli ex artisti ormai in disgrazia. Dopo un anno non ho ancora ricevuto risposte. Poi a un certo punto lo sai con chi se la prende? Con se chi? La prende con i politici e con gli immigrati. Dice: in Italia c'è gente che con pochi anni di mandato parlamentare prende pensioni da sogno e chi ha lavorato per 50 anni non può nemmeno pagarsi un tetto. Ora, vabbè, per carità, però non è lui l'emblema della sfortuna, no? Del pensionato, no? Del pensionato che deve tirare avanti la carretta. Evidentemente ha fatto degli investimenti sbagliati, non so che cosa ha fatto, ma che c'entrano? No, ma io che c'entra la tutto, disperazione. No, ma che c'entra tutto questo con lo stipendio, con la pensione dei parlamentari? No, gli immigrati. Poi dice ancora: forse dovrei mettermi su un barcone al largo di Lampedusa per avere una maggiore assistenza dallo Stato. È una cosa indegna quello che succede in Italia e ormai lo spero che mi prenda un colpo il prima possibile, perché non so cosa posso fare in questa situazione. Devo pure sperare che qualcuno mi faccia un funerale, perché lo Stato paga la bara ai clandestini ma a noi no. Cioè, tu sei in disgrazia, c'hai forse le pezze al culo, come si dice in gergo, dopodiché te la prendi coi politici e con gli immigrati. Vabbè, io dico, per carità, ti abbraccio fortissimo, caro Mastelloni, ti voglio anche bene, però prenditela con la tua cassa di pensione, certo, pensa con i tuoi investimenti, certo, sbagliati, prenditela col mondo infame e ingrato, per carità, ti vogliamo bene, ti aiutiamo, però amico mio, che cazzo c'entrano gli immigrati che arrivano nei barconi? Tu dici sono trattati meglio di me, ma non credo. Dopodiché, con chi è che se la piglia? Con la pensione dei politici, ma non è che se uno c'ha la pensione bassa la colpa è dei politici che ce l'hanno alta. Roberto da Milano, vai! Io sono contro Grillo sulle affermazioni veronesi. Mia moglie ha avuto il cancro al seno e è stata operata dalle chirurgie. Sì, però lei ha, lei ha l'auricolare oppure qualcosa che non funziona? No, va bene. Sono in macchina, adesso rallento. Dicevo, sono contro quello che ha detto Grillo. Io sì, ho vissuto l'esperienza di mia moglie. Ha fatto le ecografie, mammografie normali. Ho speso io privatamente, sì. A un certo punto ho detto: se vuole non le faccia più. Mia moglie ha continuato a farlo. Grillo dovrebbe portare le cose, le dimostrazioni, la documentazione e poi aprire la bocca, non così sparare cazzate un giorno sì e l'altro pure. Addirittura c'è un ex parlamentare dell'Italia dei Valori che si chiama Borghese, che è malato di tumore, così dice sul suo profilo Facebook. No, così dice, nel senso che non lo dico io. No, ma nel senso che non lo dico io, voglio dire. Lo dice lui stesso, il quale augura a Grillo di avere un tumore. Vi assicuro, no, così. Sì. Si chiama Antonio Borghese, te lo ricordi, in Parlamento dell'Italia dei Valori? Certo, il quale dice: auguro a Grillo, al signor Grillo, di avere un tumore, così vediamo poi come si comporta. Più o meno questo è il senso della cosa che scrive. Perché a me Veronesi ha allungato la vita. È successo anche a sua moglie, Roberto? No, aspetti, mi è saltato a me perché sono adesso. No, voglio dire, anche a sua moglie Grillo. Sì, Grillo, Veronesi ha allungato la vita? Ma senza dubbio, senza dubbio. Mia moglie vive perché è stata per puro caso, ha fatto una mammografia, ha trovato questo tumore. L'hanno operata, il professor Luini l'ha operata. Dopo un po' di tempo, ma va fatta adesso la mammografia. Però, vabbè, ragazzi, adesso non entriamo in questioni mediche. Ma ma quel coglione, ma adesso, ma veramente mi fai arrabbiare. Ma tu ti rendi conto di quante donne Grillo, soffrono? Non è che ha detto che non bisogna fare la mammografia. Attenzione, ha detto una coglionata mega galattica. Perché facendo pensare che c'è dietro un interesse di veronesi nel fare più mammografie di quel che sono necessarie, certo. Questa puttanata ha detto, è come dire alle persone, guardate, non è necessario, invece una in più va fatta, ne va fatta una in più. Salvo da Catania, Salvo, vai. Ah, incredibile. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, a proposito di coglionate, come diceva Parenzo, volevo porre l'attenzione sul reddito minimo garantito, sulla marcia che ha fatto reddito quello... minimo garantito, no, amico mio, mi viene la tristezza alle 19.25. Mi viene la tristezza alle 19.25. Il reddito minimo garantito, amico mio. Clima di menzogna perenne. Siamo in macchina paese. Alle 19.25 il minimo, il reddito minimo garantito. Io non sono in macchina. Allora, Parenzo lo sa. Ma che vuoi? 1900, non mi interessa, è una discussione infinita. Non mi interessa farla qui. Ma e non è il dirlo, posto. Vogliamo dirlo che, cosa? Che dal 1992, che l'allora comunità economica guarda, europea. Io riduco impone, questa. Impone, sì, ma non impone niente, impone non impone a nulla. A tutti i paesi membri che di adottare un sistema tipo reddito minimo garantito, quale fattore di. Allora, Salvo, no, a me quello poveri. Che tu stai dicendo sulla Unione Europea che impone, non impone, non me ne frega assolutamente nulla. Allora, ascolti, io ti dico solo una cosa, Cruciani, ti dico solo una cosa. Cruciani, siamo in Europa, sì o no? Siamo in Europa? Ma senti, Salvo, però. Ci dobbiamo accollare. Non mi interessano questi discorsi. Allora, il PD, che è il partito più europeista che c'è in questo paese, dovrebbe vergognarsi. Vabbè. Quando va nelle varie trasmissioni televisive con vabbè, i suoi il reddito minimo garantito, con i suoi esponenti a dire che è un'invenzione del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle va bene, d'accordo. Viva il video. È una direttiva europea. Vabbè, non me ne frega niente che è una direttiva europea. Secondo me serve. Vabbè, ragazzi, andiamo su, forza, vai. Noi abbiamo questo sacrosanto diritto. Reddito minimo garantito alle 19.25. Che veramente mi vuoi far morire? Mi vuoi far annoiare a morte? E poi il reddito minimo garantito serve a non far lavorare le persone. Cioè, più hai un reddito garantito minimo, più non vuoi trovare lavoro, ma è evidente. No, ecco, è sempre così. Va bene, Rosario, Napoli, vai. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Niente, no, io riflettevo che il Movimento 5 Stelle, più come movimento, mi sembra una setta. In quanto quello che dice il capo è indiscusso e non si riflette. Però volevo dare il mio contributo su ciò che ha detto Grillo per quanto riguarda le mammografie. Dice Grillo, con mammografie e senza mammografia la differenza sono i 2 per mille. Perché per il sì, ma i 2 per mille sono morti in meno. Sì, lui dice, io lo so, per Grillo invece non contano, poiché la differenza fra farla e non farla la mammografia è solo i 2 per mille. La sua riflessione è di tipo negativa. Io dico che i 2 per mille per me, ma fosse anche lo 0,001 per mille, comunque sono sì, persone no, che assolutamente, si grazie. Bruno Trieste, vai, Bruno. Sì, buonasera a tutti. Vai. Senta, io volevo dire che ho ascoltato l'intervista di Grillo, sì. Ma non ho sentito il suo schierarsi contro le mammografie. No, ma ragazzi, però bisogna intendersi, non si può cercare di fottere posso l'opinione pubblica no? In un certo modo. Posso, sì, ma lo so quello che vuole dire lei, che Grillo non si è schierato contro le mammografie. Quando tu dici che Veronesi è sponsorizzato da un'azienda che poi gli dà i macchinari per le mammografie, dici in sostanza, e lo dici anche esplicitamente, che lui ne fa troppe, che lui, essendo sponsorizzato da quelli, ha interesse a fare le mammografie, così ci marciano tutti e ci guadagnano tutti. Uno non si può nascondere dietro le parole, perché Grillo non fa il comico, fa il capo di un partito politico. Dunque, se dici così, devi portare le prove che Veronesi è uno che prende i soldi e fa fare le mammografie anche quando non è necessario. Esatto. Perché sostanzialmente Grillo ha detto questo, adesso basta cazzate. Volevo dire che la Zanzara è uguale a Radio Padania. State ascoltando un programma offerto da... AET Italia, l'energia elettrica per imprese e reseller. Visita il sito aetitalia.net. La Zanzara. Certe volte a Cruciani darei un pugno in testa per quanto mi fa incazzare, ma altre volte l'abbraccerei per le cose giuste che dico. Allora, che dici? Mando Rocco Siffredi, Parenzo? È una delle poche cose che mi fa sorridere questa roba qua oggi, perché poi la gente mi tormenta. Ma dove lo questo... vuoi mandare? Dove lo vuoi discorsi mandare? Su Veronesi, basta, non ne posso più. No, no, adesso, cioè... Non ora. Sì, come no, no, no, no. No, ma non è pesante, non è pesante. E quando dice, per esempio, una cosa bellissima, straordinaria, che a 20 anni ha fatto una scena di sesso con una di 72. Di 20 anni, Rocco Siffredi a 20 anni. Immaginate un po' Rocco Siffredi a 20 anni, che cosa straordinaria, che figura mitologica. Beh, assolutamente sì, metro a panze, assoluto, uno dei simboli dell'Italia, direi nel mondo. Rocco con la 72enne. La donna più anziana con cui hai fatto la, con cui hai 70 anni. 73, 72, 73 anni. E come hai fatto? L'ho fatto a 20 anni. C'erano tre donne più o meno dai 60, e la più anziana era 73 anni. Ti dico anche come ho fatto, ti dico anche come ho fatto. Io avevo 23 o 24 anni. Quindi nel massimo del tuo splendore. Sì, Teresa mi chiama e mi fa: Rocco, mi hanno scritto delle donne che sono o vedove o comunque hanno i figli grandi, il marito non ha più attività sessuale, però loro vorrebbero fare qualcosa nella loro vita, mi hanno scritto. Dato le mie dimensioni dato il fatto di una 70enne che mi sono detto magari non si lubrifica, uno psicologicamente si fa delle idee, non conosce, e lei mi fa: Rocco, ce ne sono tre, con chi vuoi lavorare? 60, 63, 73. Ho detto tutte e tre insieme. La più anziana aveva veramente un viso molto molto molto marcato, era magra. E ti dico la verità, a un certo punto aveva anche una sorta di difficoltà a fare qualsiasi cosa lei. Era un po' anchilosata. Sì, era un po' inchiodatina, però ti dico la verità, guardandola negli occhi, ho avuto la fortuna che aveva questi occhi blu e mi ha guardato in una maniera talmente tenera che io non ho fatto sesso con lei, con la 73enne. Ma con i suoi occhi? Con quello che era quella donna 50 anni prima. In realtà gli sono entrato dentro gli occhi, nella testa, ho visto, l'ho rilassata. Allora, questo è per dire che a Rocco basta ogni tanto, ma magari a moltissimi di noi, a moltissimi di voi che ci state ascoltando, un dettaglio, no, caro Parenzo? Un piccolo dettaglio per far scattare una cosa. Adesso, io non pensavo che tu, oltre a farlo sentire, ti mettessi a fare anche le glossa, la disamina, una sezione, come dire, attenta e selezione. Beh, attenta del pensiero, della fenomenologia del assolutamente, signor Rocco. Assolutamente, pensavo va fatto. Che ti accontentassi di lanciare questo audio. No, perché questa audio. Roba qui, 20 anni con una 72enne di Rocco, questo racconto meraviglioso di alcune sue esperienze, nei primi anni di una grandissima carriera ormai finita, e beh, insomma, sono fondamentali per questo, perché ti fanno capire che qualche volta basta un piccolo dettaglio per far scattare, no? Per far scattare l'adrenalina di qualsiasi tipo, in questo caso adrenalina sessuale. Capisco. Raccontateci anche voi queste cose strepitose. Anche a voi basta un piccolo dettaglio, un'unghia di un piede, un tatuaggio sul braccio, gli occhi, sì, però gli occhi è banale, no? Un piccolo piercing. No! Alessandro da Roma, vai. Alessandro? Sì, buonasera. Dimmi Alessandro. Buonasera, ciao. Ciao David, ciao Parenzo. Vai. Io sono un esempio romano di tutti i giorni che prende la metro. Sì. e siccome sentivo David che è molto amico oppure a favore, vuole l'un per mille per i nomadi, Sinti o come li chiama lui, vorrei che un giorno quando vuole ci vediamo a una fermata tipo Circo Massimo e prendere la metro, che cosa significa? Hai detto la fermata giusta, perché prendo sempre anch'io Colosseo, Circo Massimo. Vabbè, fino alla stazione. Fai raccontare all'ascoltatore, allora, che è più interessante. Sicuramente lei la prende all'inverso contrario. Parliamo di una banda di zingari che ci sono tutti i giorni. Confermi oppure non lo vede? Ma ci sono, i criminali ci sono dappertutto, certo. Ma che ci non sono. Parliamo di criminali, perché no, parliamo di zingari. Zingarelli minorenni che tutti i giorni rubano. E io qui io ti do un esempio, cioè una denuncia, per dirti, poi mi dite voi come devo fare io, che il primo novembre io faccio una denuncia perché vengo picchiato, ok, visto che tu parli tanto. Non ho capito, vieni picchiato da chi? Io vengo picchiato da quattro zingari rom. Ogni giorno vieni picchiato da quattro zingari. No, attento, allora, non mi mettere in bocca parole che io non ho detto. Ho detto il giorno del primo novembre io prendo la metro. Sì. Becco una zingarella che ruba ad una persona anziana e mi metto in mezzo. Sì. Strilla questa persona che è una zingara con incinta. Sì. Strilla e mi vengono quattro rom addosso e mi danno un tirapugni in fronte, ok, casco per terra. Vabbè, capo. Allora? No, per allora per dire che si zingari, ma no, io non voglio fare il razzista. No, denunci quelli che l'hanno aggredita, certo. Ma io ci certo, io ho una denuncia in mano. Hai una denuncia in mano, l'hai presentata? Io a voi vi conosco perché vi sento alla radio, ok, anche in televisione, quello che vabbè, volete. Allora Alessandro, però non ho capito. La conclusione allora, no, di questo racconto qual è? Allora, il mio racconto è che dal primo novembre che mi hanno detto, io ho detto alle forze dell'ordine, io la denuncia la faccio se mi fate fare il riconoscimento. Lo sai, oggi siamo a maggio, lei ha avuto una chiamata? Va bene Alessandro, c'è spesso la giustizia italiana non si mette in modo per le piccole cose. Non proviamo, scusami. E allora perché lo? Perché? Allora, la giustizia è questa, che io direi, mettiamo in ogni metro un poliziotto e un carabiniere, se non di più, come li vedo io, li vedono tutti o no? E allora? Ci sono le guardie giurate alle fermate delle metropolitane. Ma lei può mettere le guardie giurate, la polizia, i carabinieri. Io parlo di risolvere questo problema, perché come ho sentito e lei ha sentito a Striscia alle Iene, lo zingarello che dice a me la vecchia tanto prima o poi muore. Sì, quello no, quella è un'intervista a Mattino 5 che okay, su cui ancora ci sono dei dubbi, però. Allora adesso la va bene, Alessandro, ho capito, tu lamenti il fatto che nonostante la tua io lamento, scusi se la interrompo, io lamento che tutti i giorni i romani tutti i giorni i romani che prendono la metro si trovano zingari e zingarelli. Comunque bisogna liberare la metro di Roma dagli zingari. Roberto da Treviso, vai. Roberto, vai. Sì, ma anche tu fai come Grillo allora, scusa, cioè? Perché rilanci le notizie tanto al chilo ed è la stessa accusa che fai a lui sul tema di Veronese, non ho capito. Quale sarebbe? Non ho capito bene, cerchiamo di entrare bene nella questione, fai un'osservazione precisa, altrimenti non capisco nulla. Io sono d'accordo con l'affermazione di Grillo. Benissimo. Questa è la premessa. Ok. Dunque? Non capisco perché si parta dall'affermare subito che è una stronzata, come tu hai detto verbalmente. No, scusami un attimo, a prescindere. Io non ho detto che è una stronzata a prescindere, ho detto semplicemente una cosa. Grillo non voleva fare una questione sulla disinformazione. Grillo ha detto una cosa precisa, ha detto che siccome Veronesi è sponsorizzato da alcune aziende, ha interesse, ma lo vogliamo fare risentire Grillo, sennò sembriamo matti. Cioè non ha fatto, bisogna fare una grande riflessione sul modo in cui vengono fatte le mammografie oggi in Italia, perché così si scoprirà, grazie a questa riflessione che faremo nei posti più adatti a farla, scopriremo che forse c'è qualcosa da cambiare. No, ha attaccato il professor Veronesi sostenendo che sostanzialmente fa fare più mammografie di quanto sarebbe necessario fare, perché questa è la sostanza. E sentiamo. Allora capisci che Veronesi va in televisione a dire che bisogna fare le mammografie perché la General Electric che fa i mammografi probabilmente gli dà una sovvenzione nella sua fondazione. Allora capisci perché hanno questi comportamenti. Allora quando ci sono e si realizzano i conflitti di interessi li fermi e dai delle multe di miliardi di dollari come fanno negli Stati Uniti. Allora, ragazzi, ma a me mi pare chiaro quello che ha detto Grillo, cioè Grillo va in televisione a dire che bisogna fare le mammografie perché la General Electric paga. Ma scusate, ma più precisa di così l'accusa, come dovrebbe essere? Dice, la General Electric paga, è sponsor di Veronesi e dunque Veronesi va in televisione a dire che bisogna fare le mammografie. Dunque non ci va perché servono le mammografie, ma perché la General Electric che lo dice. Perché è pagato dalla General Electric. Scusate, ma questo è il punto. Vero o falso che sia? Vero o falso che sia? Tu dici vero o falso che sia? Perché bisogna dire? Perché bisogna dire che non è così? Che ha detto invece un'altra cosa, come adesso vuole far passare Grillo. Ha detto così. Ha detto che va in televisione a dire che bisogna fare la mammografia sostanzialmente perché perché viene pagato da la General Electric, ma cioè, più chiaro di questo, come deve essere? Chi c'era prima? Roberto, vai. Sì, sono sempre io. Ma perché dite che è un'altra cosa? Dite che, no, non è, che è no, disinformazione quella che fanno i media, quello che fanno i giornali. È così, ha detto che quello è uno pagato dalla General Electric e bandire stronzate in televisione. Ok, e tu sulla base di quale altre prove allora dici? Io non sto dicendo che non è vero, sto dicendo semplicemente, per me non è vero, okay. Non è vero perché mi fido della medicina ufficiale in Italia, innanzitutto, prima cosa, tu magari no ed è legittimo, che non ti fidi. A casa mia si chiama prevenzione e me ne fotto se la General Electric o qualsiasi altro ha finanziato le strutture che usa Veronesi, questo è il mio punto, poi me ne frego di tutto il resto. Perché bisogna ribaltare il discorso e dire che Grillo ha detto un'altra cosa? Grillo ha detto questo. Appunto. È questo che mi fa impazzire, al di là del fatto che è vero o falso quello che dice. Appunto. Cioè, questa è un'altra discussione, e magari noi pensiamo che sia falso, ma dicono che è un'altra cosa, dicono che non è vero, i media hanno distorto tutto, addirittura qualcuno per coprire Gomorra nel PD. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa parliamo, Roberto? Di che parliamo? No, di prendere spunto da questa provocazione, se falso fosse, per trattare il tema, perché non farlo in questo modo? Ma quale tema? Non c'è preoccupazione. Ma se ne occupano le cose, se ne occupano gli scienziati, se ne occupa il Ministero della Sanità, se ne occuperanno le commissioni in Parlamento, ma chi se ne frega? Ciao. Ma di che stiamo parlando? La Zanzara. Un tizio mi scrive: ieri una tassista romana mi ha violentato in taxi ed abbandonato a Rione Monti. La corsa chiaramente offerta, una signora, adesso amico mio, forse è una battuta questa, non è di cattivo gusto. Beh, insomma, c'è stato uno stupro in un taxi, o stai raccontando una storia vera di una tassista che ti ha messo le mani addosso e ti ha portato fino a Rione Monti per poi abbandonarti lì, oppure no? Oh, sai Parenzo che in Campania sta succedendo un casino. Di tutto. Perché De Luca sta imbarcando chiunque. Lo so. Il candidato del PD, De Luca, sta imbarcando chiunque sotto il segno del del padrone, di quello che poi comanderà. No, di vincere quello chiaramente, ma sotto obiettivo. Il segno di uno che è una specie di caudiglio, no? Già quando era sindaco di Salerno era uno che amava prendere tantissimi voti, 65-67%, una sorta di plebiscito, è un uomo che ama i plebisciti, bisogna dirlo, il signor De Luca, candidato del centro-sinistra in Campania. La cosa incredibile è che oltre a nostalgici di Mussolini, come abbiamo sentito l'altro giorno, ci sono anche formazioni o personaggi appartenenti a formazioni apertamente di destra. Per esempio c'è un esponente del Fronte Nazionale. Sai cos'è il Fronte Nazionale? Il Fronte Nazionale, purtroppo, lo so, sì. È guidato da un signore che si chiama Adriano Tilger. Buonasera Tilger, buonasera. Come andiamo presumo signor Tilger? Che Parenzo per il suo purtroppo evidentemente non conosce il fronte. Non ha grande simpatia, diciamo, per i fronti. Non lo conosce, non può avere simpatia o antipatia, non lo conosce. No, diciamo, il Fronte Nazionale, siccome lei... No. Ehi, alla là! Scusi, è stato un istinto. Ecco, è fuori strada. Perché è completamente fuori strada. Scusi, è completamente fuori strada, nel senso che non c'è nessuna nostalgia per Mussolini nel fronte nazionale. Non c'è nostalgia nel fronte nazionale. Il fronte nazionale è un tentativo di mettere insieme tutti gli italiani, tutti gli italiani, sia la loro provenienza, del loro passato, o di destra, di sinistra, di centro, di centrodestra, di centrosinistra, per cacciare questa classe politica impossibile che ha messo insieme il centrodestra e il centrosinistra. Cioè, cacciare anche Renzi? Per fregare gli italiani. Cacciare anche Renzi? Tutti. Sì, tutti, che vuol dire tutti? Tutta questa classe politica che ha usurpa, che è al servizio dei poteri forti e che sta fregando l'Italia. La classe politica che ci ha regalato prima Monti, poi Letta e oggi Renzi. Però scusi, Tiger, io la voglio far osservare che il suo la persona che si candida, come si chiama, De Leo là, no? Per il fronte nazionale appoggia De Luca. Il signor De Luca è espressione del Partito Democratico. Cioè, posso? Sì, posso? Prego, dica, perché De Leo non si candida in quanto fronte nazionale. Vabbè, comunque appartiene al fronte nazionale, mi scusi. Si sta riorganizzando. Si ha dato libertà di scelta di qualsiasi cosa. Ma lei preferisce De Luca, però? A chi? In Campania no, per me sono la stessa cosa. Ma scusi, ma questo per me sono intercambiabili De Luca. Ma scusi, De Leo, come tutta questa gente qua? De Leo è un esponente del Fronte Nazionale. Per me è intercambiabile. D'accordo, però De Leo è un esponente del Fronte Nazionale, o no? È un nostro aderente ha fatto una scelta per una lista civica trasversale, la quale dopo ha scelto di appoggiare a lei piace De Luca o no? No. Non le piace De Luca? Non le piace l'unica cosa che posso dire su De Luca che poteva essere positiva è quando ha iniziato a rompere l'asse all'interno del PD. Perché lei sa che ha vinto una delle primarie contro la volontà della segreteria. Ah, per cui le piace perché è un dato positivo. Poi evidentemente questa poteva sembrare una candidatura trasversale, è diventata una cosa perché ha imbarcato cani e porci. L'ultimo imbarcato è stato De Mita, insomma, per intenderci. Appunto. Purtroppo là è diventato ingestibile la situazione. Però non è il fronte che il fronte che ha avuto piena libertà, come l'hanno avuto tutti gli iscritti, di tanti simpatizzanti del fronte, per queste regionali. Scusi, ma dove non ci siamo, scusi, ha fatto un'operazione, signor Tiger, lei si può definire un estremista di destra? Sì. No, assolutamente. Beh, lo è stato. Non sono né estremista né di destra. No, lei lo è stato. È stato un estremista. Neanche. Mi dispiace, ma non è vero. Se vuole conoscere la mia storia, io nel 68 sono fra i partecipanti a Valle Giulia, dove sinistra e destra insieme cercarono di creare. Ma ha fatto con delle chiavi un personaggio particolare, lui, certo. È vero che è un personaggio particolare. E poi le posso citare tanti altri. Ma De Luca, per esempio, De Luca come Toni, non le ricorda un po' lui? No, Mussolini, no? Come Toni, un po' autoritari, no? Ma che c'entrano i Toni? No, Toni un po' autoritari. Le piace un po' l'uomo forte a lei o no? No, a me piace l'uomo di buona fede, piace l'uomo che difende gli interessi degli italiani, che oggi non esiste, stiamo cercando di costruirlo. Vabbè. Lei è lo stesso. Non ci appartengo. Scusi, amico mio, io conosco bene la politica, la conosco da tanti anni. Lei è lo stesso signore che andò in Grecia per dare il benvenuto ai colonnelli greci, amico mio. Non è esattamente l'ultimo arrivato, un moderato, liberale, figlio di Einaudi e Benedetto Croce. Con i colonnelli è andato, amico mio, i colonnelli greci. Io non sono un moderato, non sono neanche un estremista. È stato inquisito per la strage dell'Italicus. Se mi permette. Vivo in una nazione che nel 1945 ha perso una guerra. Quando faccio politica? Le ricordo che quando c'erano i colonnelli greci, io avevo 18 anni, noi facevamo un viaggio organizzato perché si stava cercando un certo tipo di discorso. Ma qualcosa Mussolini di buono fece, secondo lei? sicuramente, ma questo è riconosciuto universalmente. Ma beh, che cosa oddio, adesso Mussolini che fece qualcosa di buono. Sul piano sociale, che cosa vuol dire sulle cose ma che sul piano sociale? Lo faceva perché in quanto dittatore. Dai, andiamo, lascia su. Lascia stare se era dittatore o meno. Eh beh, ho capito, ma che c'entra? Io, per esempio, sono convinto che oggi siamo in una dittatura peggiore, no? Tanto è vero che peggiore di Mussolini. Il 40% degli italiani, e sono convinti che siamo in democrazia. Negli Stati Uniti, ah, non siamo in democrazia. Il 100% degli americani, e siamo in democrazia. Mi pare una cosa per rispondere. Ma non siamo stare in democrazia. Questo. Fermi un attimo, che c'è la pubblicità. Fermi e torniamo. È 800240024. Non siamo in democrazia, dice Tilger. C'è un programma, guardi, radiofonico. Com'è che si chiama? La Zanzara. Sono da chiudere subito. Guardi, da chiudere. La Zanzara. C'è un gentile signore su Twitter che continua a mandarmi una foto con l'elenco degli sponsor di Veronesi, della Fondazione Veronesi, Veneto Banca, Alleanza Assicurazioni, Corriere della Sera, Credit Suisse, eccetera, eccetera, Enel, Sisal, BMW, quello che è, un sacco di aziende, e dicendo Cruciani vaffanculo. Ma cosa vuol dire? Non ho capito. Cioè, è proibito avere degli sponsor? Non ho capito il punto. Cioè, se gli sponsor servono a far andare avanti la ricerca, è evidente che se servono per fare le truffe, per vendere cose che non servono, sono il primo a prendere a calci in culo, prima dalla prigione ovviamente, chi specula sulle malattie. Ma questo mi pare evidente, lampante. Ma bisogna portare le prove. Siamo qui, la Zanzara, 800240024. Io non l'ho capito bene, però, perché De Luca imbarca in Campania qualsiasi cosa pur di vincere, ce l'ha detto anche Adriano Tilger, che è esponente del Fronte Nazionale e che candida, anche se lui un po' nega, un suo uomo insieme a De Luca. In un'intervista al Corriere della Sera lo stesso Tilger dice in sostanza: beh, De Luca mi piace perché spacca tutto, no? Perché è uno che rompe gli schemi. Poi adesso dice no, però ha imbarcato troppa gente, pure De Mita. No, io ho detto che De Luca all'inizio spaccava lo schema. L'ho detto, lo ripeto, lo riconfermo perché è vero. Poi ha esagerato, perché imbarcare De Mita non vuol dire più spaccare gli schemi, ma vuol dire cercare ad ogni costo di imbarcare tutto. Su questo discorso di spaccare gli schemi io posso capire che uno in una lista civica trasversale abbia accettato, poi lui ha accettato la lista civica, questa lista civica poi ha fatto l'accordo, ma è un problema di vabbè, una Tilger, persona. Però, lei invece, mi scusi se mi permetto, lei deve chiedersi perché su un fatto talmente marginale qual è un esponente della provincia. Perché è normale, scusi Tilger, è assolutamente normale. Una cosa, sì, io credo sia normale perché entra nella guerra all'interno del PD. Ma quello può darsi, però se uno Renzi non accetta, scusi, De Luca e vuole che vinca il centrodestra. Vabbè, ma no, quello, e allora nasce questa polemica, come se ci fosse quello un grosso problema, che un esponente, un cittadino di un certo tipo che ha fatto le battaglie. Scusi, però non è l'unico, non è lui, siccome ci sono cosentiniani, gente che era con Cosentino, che è legittimo, per carità, gente che va sulla tomba di Mussolini, un esponente del Fronte Nazionale e altri esponenti, De Mita eccetera, uno dice vabbè, forse non è più la sinistra, e non mi pare che De Luca possa essere definito come di sinistra, o sbaglio Tilger? Per me De Luca è uno che pensa al suo successo e finché rompe gli schemi a me sta bene. Tocca vedere se il suo intervento trasversale che sta facendo ha un senso di rompere gli schemi oppure in questo momento ha un senso di conquistare. Lei ha detto prima, che Mussolini fece delle cose positive, ma allora questo ragionamento pure Hitler cioè... Che c'entra mo Hitler? No, ma per dire, pure Hitler potrebbe... Noi siamo nel 2015, lei mi viene a parlare di Mussolini e di Hitler. Che se parliamo dei problemi la gente, dei problemi d'accordo, seri, figli di quella politica fatta dai vincitori del 45. Ma che vuol dire? Lo vede che lei parla dei vincitori del 45, perché non ho capito. Certo, la verità, scusi, io quando sono nato, guardi, Tiger, io sono nato, ma non è meno male che hanno vinto. Meno male che abbiamo vinto, Tiger, che abbiamo vinto. Viva gli americani, meno male che hanno vinto. Quindi lei è contento di essere occupato. Per me va bene, una sua condizione. Ma occupato è il telefono, Tiger. Tiger era meglio. L'unica cosa nato nel 47, sì. La mia città Taranto, aspetta, dove sono nato, era occupata dai militari americani. Il telefono è occupato. Vabbè, ma oggi no, dopo 70-80 anni noi abbiamo 107 basi di questi extracomunitari armati, dove non abbiamo sovranità. Ma questo è un dato di fatto oggettivo. Ma scusi, meno male, non dobbiamo fare nulla contro i militari americani. Scusi, come Tiger, dimostra la storia del Cermis. Scusi, Tiger, ma allora era meglio che la guerra la vincevano Mussolini e Hitler, non ho capito. Era meglio che la vincevano gli italiani. Cioè, dunque era meglio, era meglio che la vinceva l'Italia, cioè era meglio che la vinceva Mussolini. Certo. Ma come certo? Ma non è certo! Dove vinceva la guerra? L'Italia in quel momento era rappresentata Mussolini bene, dove vinceva. Ma era alleato con Hitler, con i tedeschi. Hitler! Ha capito che era alleato con il signor Hitler! Ma come cosa significa? Il signor Hitler! Il signor. Ma lei sa chi era il signor Hitler? La storia non mi appassiona. Ma non appassiona, ma è lei che la evoca con gli americani e con l'occupazione. Sono nato nel 47 e l'Italia che ho trovato non mi è piaciuta, non mi piace e continua a piacermi sempre meno. Vabbè. Tant'è vero che stanno, o mi dispiacerebbe dire, state convincendo i giovani che se ne devono andare. Caro Tilger, l'Italia scusi, per gli immigrati qual è l'Italia che non le piace? La sua soluzione per gli immigrati qual è? Mandare tutti via? Assolutamente no, la mia soluzione per gli immigrati è risolvere il problema a casa loro. Vabbè, d'accordo. Perché dunque adesso con quelli che arrivano, con quelli... perché io sono un essere umano, però la criminalità è di chi ha speso tutti i soldi per gli aiuti al terzo mondo per aiutare le industrie in fallimento. E i nomadi? E i nomadi che ne facciamo? Per aiutare i popoli del Va bene, d'accordo. E i rom che ne facciamo dei rom? I rom li rimandiamo in Romania. Vabbè, e quelli che sono italiani? E gli italiani, se sono italiani, devono essere italiani, quindi devono essere integrati nella società italiana, se sono italiani. Punto. Gli italiani dunque, sono italiani. I campi rom, le ruspe come Salvini? Le ruspe per i campi rom, ma lei è contento che vivano in quei No, quei ma mondi? Si figuri, assolutamente no, nessuno. Lei è contento che no, vivano in quei assolutamente, assolutamente. Il discorso della ruspa è che diventa invidibile e insopportabile. Va bene. Tiger, sentiamo poco, sentiamo poco. Sentiamo americani. Arrivederci, gli americani hanno fatto delle intrusioni. Ciao. Allora, andiamo in provincia di Macerata, Riccardo. Ciao ragazzi, voi ciao, ciao, dimmi. L'orario e fare un programma sul testo. Lo so, amico mio. Dalle 11 a mezzanotte. Ci siamo vicini, dimmi. Io volevo fare un intervento riguardo a Rocco Siffredi. Sì. Io ho conosciuto una ragazza recentemente. Sì. Del tuo paese, poi, penso, presumo. Tu sei di Milano? No, io abito a Milano, non sono di Milano, però comunque. Quindi. Hai conosciuto una ragazza di Milano, questa è la premessa, che? Sì, che è molto, ha una sessualità molto aperta. Sì, vabbè. E lei riesce a farti piacere un uomo dal niente. E io questa cosa la adoro. Io se fossi una donna sarei proprio come lei. E ho avuto una bellissima esperienza con questa ragazza. E bisognerebbe conoscerne di più di queste persone. Quindi, scusi. Cioè, non ho capito bene, scusa. Lei telefona. Esatto, alle 20:06. Il lunedì inizio settimana. Alla radio del gruppo del Sole. Ma lascia perdere, Lei lavora, allora se fai una trasmissione sul testo a Parenzo non lo chiamare. Sì. No, ma quello va benissimo. Che chiama, lavora, cioè 800 24 00, attende in linea, mille notizie da commentare, la sconfitta dei laburisti in Inghilterra. No, ma non ho capito, Riccardo. Lei ha conosciuto questa ragazza che sarebbe? La mia amica. Qual è la sua caratteristica? La caratteristica di questa ragazza qual è? L'ha detto. Che le piace il sesso, ha una Ma quello molto aperta. Vabbè, quello insomma, ma non è una cosa dovrebbe interessarci, cioè, non è una cosa così strana. Io pensavo che tu ci raccontassi una storia bizzarra. È una cosa molto strana. Ma non è vero, ti assicuro che non è abituato assolutamente. Ma tu non sei abituato e ti ha colpito questa cosa, ma è una cosa assolutamente normale. Cioè... Certo, poi Rocco Siffredi Ma non credo che c'entra Siffredi, perché questa qua è la versione femminile di Siffredi, questa qua. Esatto. E perché? Perché lei riesce a come Rocco Siffredi diceva che riesce a farsi piacere una donna da un tatuaggio, da un'unghia, da uno smalto. E lei è un po' così. Cioè, io la invidio tantissimo. Cioè, è una sorta di ninfomane. Sì, ma io ti ripeto, la invidio tantissimo. No, ma non sto parlando male, sto dicendo semplicemente la versione di Rocco Siffredi, perché riesce a farsi tutti. Non proprio tutti, c'è anche lei una forchetta che è più ampia della mia sicuramente, però si riesce a avere una visuale più in là rispetto ad altre persone. Vabbè. Luigi D'Ancona, una visuale più in là, ma che vuol dire? Andiamo, diciamo le cose come stanno. Luigi, vai. Ciao, buonasera. Io chiamavo per in merito al discorso di Grillo e Veronesi. Sì. Allora, io sono un operatore del settore medicale, delle attrezzature medicali, e posso confermare che in un certo qual modo noi offriamo a questi personaggi, come il professor Veronesi, dei benefit se sponsorizzano i nostri prodotti durante i convegni, durante le trasmissioni. Ma questo qua è un altro discorso, però. No, è una cosa normalissima, cioè nel senso, per poter vendere di più e perché vendiamo di più ai suoi colleghi o negli ospedali, è una prassi normale questa, si chiamano opinion leader, loro girano i convegni, girano le trasmissioni e parlano che è meglio fare più mammografie perché... Ma scusi, però... Certo punto. Ma è un dato oggettivo che la mammografia previene il tumore al seno, di cui io in questo momento non voglio parlare. Io non ho capito, può Luigi. Un leader politico lanciare un'accusa pesantissima come quella e in sostanza dire che Veronesi fa fare più mammografie perché così fa più soldi? Questa è la questione. Fine. Aspetta, magari Luigi ci crede. Vabbè, per carità. Andiamo. Magari Luigi ci crede. No, non è che ci credo, è che molto spesso anche su certi farmaci è su certe anche in altri settori, anche nel dentale, si fanno più impianti perché si spinge a fare più impianti perché ci sono delle convenienze e vengono pagate. No, ma che ci siano delle convenienze e che ci sia un buco nero da quel punto di vista, questo è chiaro da tantissimi anni ormai. Qui però non parliamo, non la buttiamo in caciara come al solito. No, cioè, ma infatti non perché uno la butta in caciara su tutto quello che non funziona nella sanità, è un discorso lunghissimo che non possiamo fare. Qui c'è un'accusa precisa. Veronesi è una specie di truffatore, anche se non l'ha detto Grillo, perché fa fare più mammografie in quanto sponsorizzato da un'azienda. Ragazzi, se non giriamo intorno e parliamo di informazione, cose come al solito raccontiamo fuffa. Grillo non ha detto questo. Grillo ha detto che Veronesi è una specie di bandito, chiaro? Pubblicità. No, questo l'ha detto. Però, adesso ci pare dicendo sì, le ditte spingono per fare le cose. Certo, capisco come funziona, lo so perfettamente come funziona. Si spinge per vendere il prodotto e dunque spesso per fare degli esami che non servono, per vendere delle medicine che non servono, assolutamente sì. Ma stiamo parlando di un'altra cosa. Ma scusami, ma tu sei fuori di testa, se... La Zanzara. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Allora, la cosa che mi fa impazzire di più della vicenda dei cosiddetti impresentabili in Campania è che prima fanno le liste, candidano alcune persone che vengono ritenute impresentabili o perché hanno dei precedenti penali o perché sono indagati o perché sono legati troppo alla destra, sto parlando ovviamente della sinistra, cioè del PD in sostanza, e poi dicono beh non votate gli impresentabili, ma come, prima non hai controllato le liste, adesso dici di non votare, poi fai nomi e cognomi, no, sto parlando di De Luca ma anche di esponenti di punta del Partito Democratico, bisogna fare nomi e cognomi. Radio Padania, vediamo che succede. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano. Radio Padania potrebbe chiudere. Servi di Roma fuori. Grazie ai grillini, Radio Padania chiuderà, perché sono stati chiusi i finanziamenti per la buona politica, sono stati chiusi i finanziamenti per i giornali politici e per le radio vicine alle politiche. E non permettere al tiranno di accecarti. E adesso noi siamo qui per chiudere. Radio Padania è una radio di straccioni e di ciccioni e tra poco esisterà soltanto Radio 24, potrete comprare soltanto il Corriere della Sera e se vorrete informazioni dovrete per forza andare sul blog di Beppe Grillo, signori, nient'altro. Figlia della libertà. Chiudete quella radio. E poi ragazzi miei, basta col finanziamento pubblico, io vi voglio bene, però basta finanziamento pubblico, basta dare soldi basta dare soldi a giornali che non vendono, a radio che non fanno ascolti, eccetera eccetera, e che predicano basta. Odio, c'è, no, lascia bere, è il mercato che deve valere sempre, solo ed esclusivamente il mercato. Non ci rompete più i coglioni, Pellegrin. Padania bella e libera, guardava. Sì, Gad d'Erno, qualcuno ha detto andiamo tutti in Val d'Aosta così siamo sicuri di non trovarlo. Guida il popolo nella tempesta come una madre. Ascoltatori contro i conduttori, Radio Padania, senti. Caccia oltre il fiume. Perché ci disembisa della gente? Perché voi grillini ci avete tolto i finanziamenti. Ma è della roba ricchissimo. Siete dei poveracci, hai capito bene? Hai capito bene? Tu hai già aiutato Radio Padania? Libertà. Fate proprio schifo. Tu ci stai ascoltando a scrocco? Senti che c'ha. Ehi straccione, ci stai ascoltando a scrocco? Grillo ha lavorato, tu non fai un cazzo. Ciccione, ciao. Senza dubbi neri, pensamenti. Un altro ascoltatore attacca Bergoglio. Bella e libera. Il signor Bergoglio, secondo me, è uno dei peggiori papi che abbiamo avuto oggi, anche se continua a parlare di carità e di onestà e di miseria, ma è uno dei peggiori, sta semplicemente lavorando per farci invadere insieme ai suoi soci comunisti borghesi, per farci invadere da quella feccia che sta arrivando in tutti i modi. Ascoltatore contro il Papa. C'è una lucidità di analisi in quella radio rara, eh. Va bene, andiamo. Giuseppe Piacenza, vai. Qualcuno mi manda un articolo con scritto sanità, spreco da 13 miliardi per esami preventivi inutili. Ma io non ho dubbi che sia così. Non ho dubbi che c'è gente che ci marcia, c'è gente che spreca risorse. Però non la buttate in caciara, perché Grillo non parlava di questo. Parlava di un fatto preciso, di una persona precisa. Per cui non rompete le scatole con questa roba qui. Chi c'era? Mario? No, Giuseppe, vai. Dimmi, Giuseppe. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Ascolta, io ti chiamo per la questione di Grillo. Quello sì. Che stai dicendo stai un po' andando fuori. Ascoltami un attimo. Grillo stava facendo un discorso di prevenzione. Aridaie, ma l'hai sentito quello che diceva o no? Sì, l'hai sentito quello tutto, che diceva su Veronesi o no? E allora basta, sì, dai. Sì, come no? Alla fine, ma Veronesi è anche quello che per prevenzione e ti vuole mettere e vuole costruire la centrale nucleare a fianco a casa. Quindi, ma quello che vuol dire? Ma non c'è, ci sono un sacco di paesi che hanno la centrale nucleare. Lui ha detto che ha detto che il nucleare è più sicuro di altre cose. Una mammografia al giorno, una al mese, hai la prevenzione. La mammografia serve per la diagnosi, tutti non per la prevenzione. Lui sta facendo un discorso di prevenzione, poi ha fatto l'esempio delle diagnosi, delle mammografie che fanno fare a IOSA, semplicemente per soldi, lo sappiamo benissimo come funziona. Ho capito, ma va bene, ma allora... il discorso principale che faceva lui è quello della prevenzione. E quella è la terra dei fuochi, sì, quella che è la prevenzione. Va bene, ma d'accordo, va benissimo. Ha fatto l'esempio di Veronesi. Nessuno di noi ha detto che Grillo sostiene che non bisogna fare le mammografie, perché lui dice io sono incazzato nero perché mi hanno attribuito questa cosa qui. Io non l'ho detta questa cosa qua. Grillo non ha detto che non bisogna fare le mammografie, ha però accusato un signore che si chiama Umberto Veronesi di sostanzialmente fare più mammografie del dovuto, perché è evidente che è così o no? Perché è il numero uno, quindi come esempio è chiaro che come esempio ti dà il numero uno che si possa capire, non si poteva dire l'ultimo dottore ma è sempre così che bisogna capire, non è che è sempre così, è che se Grillo parla o ascolti tutto quello che dice o se no poi come vuoi fare tu ogni tanto vuoi metterla a cazzeggio, gli prendi, gli estrapoli qualche frase e poi la metti. No, io non sto estrapolando, sto estrapolando. Ma scusami, abbi pazienza. Scusa, non siamo gli unici ad aver capito male, però non c'è un complotto mondiale. C'è anche la Repubblica che ha capito male. No, diciamo che tutti hanno capito la stessa cosa. Sono tutti questi grandi giornali che danno una grandissima informazione al popolo italiano. È un complotto mondiale, dai, è un complotto mondiale. No, non è un complotto. Chi ha parlato di complotto? Tutti parlano delle case farmaceutiche. È sempre tu che parli di complotti. Io ho incazzato come una dice Grillo, io incazzato. A livello di informazione non è zero, è sotto zero. Ma vabbè, ma quello informatevi con la rete allora. Cioè, è la rete. No, però il punto è un altro. Fate le analisi con l'iPad. Ha chiamato in causa Veronesi per un fatto preciso di fare degli spot a favore della mammografia perché viene sponsorizzato da una ditta? Lo ha fatto, sì o no? Sì. E allora dia spiegazioni su questo. Sul resto nessuno dice ma che ma non è vero, la mammografia si può fare da casa. Ma dai, con una, uno prende una foglia, la mette sul seno e l'ha fatta. In Germania però, è così. Ma non è così. Prendi delle ortiche, ti devi spogliare completamente. Lo dico alle donne, glielo spiego come funziona. Cazzo, non capite niente. Pagati dalle lobby, da farmindustria. Scusi, come si fa la mammografia a casa sua? Si va a casa mia. Mia moglie sta male, però abbiamo fatto lo stesso. Tu devi prendere una foglia di ortica, tante foglie di ortica, con le mani nude. No, e devi mettere sul seno. A quel punto diventerà tutto rosso e vuol dire che non c'è niente al seno. È normale. Ma così si fa veramente. Quando lo sfreghi tutto. In Germania la Merkel lo fa. No, veramente non risulta, ovunque. Grillo, scusa. Anche in Svezia, in Olanda, in Belgio, in Lussemburgo. Solo in Italia, con Farmindustria, Confindustria, Squinzi, siete dei criminali. Cioè tu, crimina, lei dice Grillo con che... le ortiche, adesso mia moglie è andata via di casa, anche i miei figli, non c'è più nessuno. Vabbè, quello per la famosa a dire, storia del... Io ho tolto anche la carta igienica, sì, per la famosa storia. Con le ortiche facevo pulire. Vabbè, la carta è morta. Sono andati via, però qua finché... Distruggete gli alberi, sono rimasto da solo, li facevo pulire con le foglie. Con ma le finché foglie. Era a casa, finché lei era a casa, come funzionava? Cioè faceva fare le analisi con le ortiche? Come funziona? Con le ortiche, col basilico. Ma quando tu è una cosa scientifica. Sei un cretino morto, finito, pagato dalla da Confartigianato, Confcommercio, non mi ricordo neanche come si chiama. Manco col basilico, so. Quando hai la febbre, l'influenza 40 di febbre, avevo un bambino neonato a casa con 42 di febbre da 7 giorni e mia moglie voleva portarlo all'ospedale, ho detto ma sei matta, sei un criminale, gli fai mangiare il basilico. Vabbè. Ma no, ma sarebbe stato il caso di portarlo, secondo me. Ma no, no, ma pure, basilico, l'ospedale è morto. Ma no, ma non è morto. Il basilico, poi è stato male per altri 2 mesi e mezzo, ma intanto ho mangiato il basilico, capito? Ciao, ciao, ciao, arrivederci. Beh, amici miei, siamo al flop. Oh, è con noi, caro Parenzo, è con noi una persona che sostiene di essere lontana parente di Vladimir Putin. Ci mancava in questo caravanserraglio. Adelina Putin, DJ, speaker radiofonica, presentatrice, candidata in Veneto con Zaia, credo, con Zaia o con Tosi, boh, adesso io chiedo. Putin? Sì, pronto, buonasera. Buonasera con a tutti. Con chi sei candidata, Adelina? Sono candidata per Fratelli d'Italia, quello il leader va bene. È la Meloni e naturalmente la lista supporta il nostro governatore Zaia. Zaia, benissimo. Sì, sì, ma certo. Cerchiamo di risolvere bene questa questione, ma adesso ci marci un po', mica è vero che sei parente di Putin. Beh, veramente non sono io che ci marcio, ma c'è una sorta di interesse così nazionale che nemmeno io mi sarei mai aspettata. Come interesse nazionale? Interesse nazionale, visto il mio cognome. No, e poi io quindi alle domande che mi vengono fatte dai giornalisti... Sei parente di Putin o no? Allora, è una storia, se vuole io gliela racconto. No, no, no, sì o no? C'è una storia... Vabbè, raccontami la storia, proviamo, dai. Ci diamo del tu o del lei? No, del tu, del tu, del tu. Ok. Allora, praticamente sembrerebbe proprio di sì. Qualche anno fa i giornalisti della Pravda, io uso il condizionale perché poi la certezza, nessuno ha la certezza. Cioè, sembrerebbe... Amici della Pravda, già qui comincia ad essere interessante. Dunque, sembrerebbe che tu sei parente di Putin, sì. Lo dice la stessa persona, Teresa, sembra... o uno è o non è. No, comunque, vabbè, sembra che lo sia. Vabbè, dove nasce la storia? Beh, io uso il condizionale molto spesso nelle mie frasi. Nelle comunque, frasi. Arriva la storia dai giornalisti della Pravda che chiamarono qualche anno fa a casa mia per avere delle informazioni sui legami tra il Putin russo e noi Putin, perché nel Veneto Putin. Noi siamo concentrati nella provincia di Vicenza, abbiamo un accento diverso. Non è Putin con la U, ma Putin. Noi siamo Putin. Voi siete come Puteo in Veneto, come Puteo, il cioè bambino. Il Putin è bambino. Certo. Il Putin è il bambino, dai, certo. No, vabbè, Putin. Ma allora non c'entra una mazza con c'entra Putin, niente, dai, su, ragazzi, diciamo la verità. Putin significa un'altra cosa. In Veneto Putin vuol dire dai, Putin. Dai, cioè, ma se lei... No, guarda, allora io le do del lei, se non fai il simpatico le do del lei. No, no, allora... diamoci del tu, dai, su, ma basta così. No, ma comunque non sono io a dirlo, io ho usato il condizionale apposta per chi lo dice allora? Sembrerebbe che ci sia un legame. Ah. Andiamo indietro negli anni, nella storia, se vuole, se volete, siamo nel 1700, lo zar Pietro il Grande, che ha fatto? Praticamente... Sì? Che ha fatto lo zar Pietro il Grande? ha costruito la città di San Pietroburgo, no? E allora? E per costruire la città di San Pietroburgo ha avuto bisogno di migliaia di servi della gleba, una volta si chiamavano allora? Così, 30.000 servi della gleba. La città di San Pietroburgo, voi sì. sapete che no, però stiamo andando troppo lontano. La signora, sì, ma signora, abbiamo degli avi lontanissimi, no? Io vi racconto. Signora Putin, cioè, sta dicendo che ci sono degli avi, dei vostri sì, avi che dei trisavoli che praticamente dal Veneto in arrivarono in Russia per aiutare il ma tu lo apprezzi Putin? Lo zar, sì, lo apprezzo molto. Lo apprezzi molto, eh? Molto. Cioè un vero maschio, per esempio, dal punto di vista così anche estetico. Beh. Cioè. Per mantenere l'ordine in un paese così vasto come la Russia ci vuole una persona che abbia del polso. Del polso, sì, che, sia anche un po' che sia anche un po' maschio, no? O no? Beh, che cosa vuol dire? Non so, magari... Lei piace come tipo? Ti piace come tipo Putin? Lei è maschio, si sente maschio? No, ma io che c'entro? Non c'ho mica comando lui. Io non glielo un po' autoritario, questo è il senso, Scaradilina. Fino a prova contrario, Putin è un maschio, è un maschio, un autoritario, sicuramente sì. Un maschio autoritario. Ti piacciono i maschi autoritari o no? Sì. Gli uomini autoritari. Ti preferisci? Sì. Li preferisci sì. dominanti o no? Prego? Li preferisci Prego? Dominatori? Pronto, siamo alla radio, eh? Li preferisci dominatori o no? Li preferisco dominatori, no, li preferisco con carattere. Li preferisci? No, pensavo che li preferissi dominatori, no, non c'entra. No, con carattere. Con carattere, con carattere. Però lei ha fatto i santini giocando anche giustamente Beh, su certo. questa cosa. Vabbè, l'altra parte si chiama Putin. Diciamo che l'ufficio stampa, sì, ha sfruttato il mio cognome. Ha sfruttato per... il cognome. E lo sa, perché non gli ha mandato un po' di santini al signor Putin, al signor Vladimir Putin? No, perché lui, non essendo della circoscrizione di Vicenza, non vota. Non essendo neanche democratico, peraltro. Non essendo no, propriamente vabbè, democratico. No, compagno, invece questo è sbagliato. Beh, dai. Se avesse la cittadinanza italiana e se residesse, se avesse la residenza a Vicenza, probabilmente gli chiederei di mettere una buona parola, però non vota. Ma scusi un attimo, signora Putin, sì. Ma lei, dicono che abbia molti tatuaggi, o sbaglio? È sì. molto tatuata. Sì. Beh, Putin è diverso, per esempio, non è tatuato, anzi probabilmente i tatuaggi gli fanno orrore, c'è questa pelle tutta liscia, tutta l'ha visto qualche volta. Perché non potevano. Vabbè, appunto. Ma anche nel sedere ha dei tatuaggi, o sbaglio? Ma chi, Putin? Ma... Anche voi come i giornalisti di Un Giorno da Pecora vi fermate? No, lei l'ho letto da qualche parte, non sapevo nemmeno sì, se... Sì, sicuramente sì, è un... Ma dove ce l'ha tatuata, esattamente? Ma milioni di persone sono tatuate. Voi non avete dei tatuaggi? Io no, non sono tatuato. No, non, è, non c'è niente di strano. A me, non no. Farmeli, diciamo. E gli uomini tatuati ti piacciono? Sì, certo. Cioè, un uomo con molti tatuaggi ti piace? Ti fa. Ma io pensavo che da una trasmissione così come la vostra avrei ricevuto delle domande tipo che libri leggi, sì. Quali sono i tuoi interessi. No, ma dico, che un uomo tatuato ti piace? Tatuaggi. È interessante. Sì, molto. Ma molto. Anche nelle parti intime? Ma perché? Qual è il problema? Non ho capito. Siete morbosi. Noi siamo molto siete, morbosi. No, adesso sì. non dica sono siete, morboso, però, sono usi, morboso. Non basta. Usi il plurale. Cioè, voglio capire, da una persona tatuata sul lato B. Culturalmente preparata come te, io mi sarei aspettata veramente delle domande molto interessanti. Allora, innanzitutto... Più interessanti almeno di quelle che stai facendo adesso. Allora, qui, siccome stai giudicando le mie domande, sì. e io posso fare alto, basso, posso fare quello che voglio, e le domande le decido io, abbiamo la pubblicità. Radio 24 è diventata radio porno. Era una bella trasmissione. Lei l'ha rovinata. State ascoltando un programma offerto da AET Italia, l'energia elettrica per imprese e reseller. Visita il sito aetitalia.net. La Zanzara. Sei altro tu, se tu sei somaro senza la coda. Ancora Rocco Siffredi, ospite di Panorama. Io sto vedendo che il mondo si sta portando verso una sessualità totale. Certo, significa che tutti piano piano si abitueranno al sesso, non ci sarà più l'omosessuale, il bisessuale, o ci sarà il sesso, la felicità, ognuno lo fa come gli pare. Ma veramente è così anche adesso. infatti vedo di più in più una sorta di persone aperte a prenderlo più che a darlo. Sarà perché è più soddisfacente, o perché ti crea più piacere, o è meno faticoso, chi lo sa. Però voglio dire, in realtà, ma tu sei pronto a fare questo passo oppure? Mia moglie ogni volta che questo è un sogno di mia moglie, quello di volermi sodomizzare, e lo fa col dito, mi piace e mi permette di venire anche di più. Quando lo fa con qualcosa, dovesse fare con Gessene Mette 2, mi fa male. Quindi io, se la cosa dovesse piacermi, non è per questo che mi sentirei strano. Ok. Hai sentito sotto la voce di Giorgio Mulei in sottofondo che dice: vabbè, passiamo ad altro adesso. Ragazzi, era un dibattito pubblico in cui in un'intervista pubblica c'era il signor Signorini, il signor Mulei, che facevano delle domande a Rocco Siffredi, il quale però ha detto una cosa francamente anche banale, devo dire la verità. Cioè, c'è sempre più gente che lo prende, d'accordo, può darsi che sia così. Ma soprattutto le donne che infilano delle cose nel sedere degli uomini. Questa che cos'è che non capisci? Non capisco il risvolto economico di tutta la questione. Ma non c'è nessun risvolto economico, è un protagonista del dibattito sociale, culturale che sta spiegando come va il mondo, come va il sesso, come si trasformano le cose. Mi sembra una cosa normale, no? Cioè, il porno è demoniaco, è fatto da Satana. Il porno non è una cosa sana. Ragazzi, è così, ma ultima pennellata di Rocco, vai, ultima. Ti assicuro che ci sono degli attori che quando fanno sesso anale e trovano che la donna si sporca in maniera naturale, non la vogliono toccare più. Ecco, per me la donna è bella sia fuori che dentro, nel senso che ti piace quel tipo di sesso, non puoi dire fino a quando è tutto pulito mi piace, quando si sporca non mi piace più. Ecco, questa mi fa schifo. La voce attonita del signor Giorgio Mulè. Beh, ragazzi, vabbè, dai, le grandi lezioni di Siffredi. Dove andiamo? Andiamo a Chieti. Giuseppe, vai. Due domande al super raccomandato Cruciani. Dimmi caro, dimmi. La prima, da quanti anni che lavora a Radio 24? No, perché è il solito che rompe i coglioni questo qua, dai su. Perché non mi rispondi? Ma non lo so, tanti anni, più di 15? 15? Sì, può darsi circa, sì. Allora, da super raccomandato e diventate super intelligente. Faccio altri 15 e divento uno scienziato. Però vado a controllare le ritenute d'acconto che le paga la Confindustria, se no rischia di prendere 600 euro come quello là che ha detto all'inizio della trasmissione. Lo controlli bene le ritenute d'acconto. Ma che capito? Cosa? Ma di che sta parlando questo qua? Di che cosa sta parlando? Gravissimo. Giuseppe da Chieti, di che stai parlando? A Cruciani, controlli le ritenute d'acconto. Perché? Se no prenderà 600 euro. Perché? Dimmi. Perché lei è un giornalista, quindi mo diventerà uno scienziato con altri 15 anni di ritenuto da conto pagato anche da me. L'estate a peggiorare, capito? Sì, Parenzo, sì, capito, parla a voce alta. Mario da Caserta. L'estate fa peggiorare la situazione. Già, vabbè, già gente vai, critica. Giuseppe, vai. Mario Caserta, vai. Mario. Sì. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Io la scorsa settimana ho ascoltato l'intervista che avete fatto chiaramente a Marco Baldini, no? Sì. A dottor Vero, visto che questo signore negli anni passati mi è stato molto vicino con il programma notturno con lui e Fiorello, in momenti molto, molto tristi. Per vabbè, allora? Scritto. Io sarei disponibile, potete passargli il mio numero, a me se non concesso, sto dicendo una cosa molto stupida, ma magari per voi scienziati. Io sono disponibile anche ad accogliere, a tenerlo con me, insomma, diversi mesi. Come tenerlo con te, ma mica che è un animale. No, con me, no, aspetta, non incominciare a girare come la sai fare tu la giratina. A te, ma con me come ospite, ok? Come ospite, ma tu perché sei un po' omosex, no? No, non sono omosex, se no con me non è che non la spunti. Sei un grande giornalista, tu questo comunistello che tiene a fianco a te. No, Mario, c'hai qualche. Ma quello però sta a Roma, tu sei a Caserta, adesso è difficile. Sì, no, ma secondo me non avrebbe problemi, perché effettivamente visto che voi date tanto spazio agli immigrati, dando spazio agli zingari, no, permette che io come italiano voglia dare un fratello italiano, vabbè, anche se magari ha sbagliato. E aiutiamo Baldini, vabbè, d'accordo. Io non ho capito però, Mario, cosa gli vuoi far fare a Baldini a casa tua? Niente, assolutamente, cioè, tengo una bella casa molto grande, c'è un appartamento per fatti suoi, può solo scendere a mangiare o addirittura può cucinare, cioè, veramente lo voglio voglio semplicemente ringraziare una persona che nei momenti difficili mi ha dato qualche cosa. Che bello, a differenza che voi difendete gli immigrati. Ma e no, non difendiamo nessuno. Guardi, che ne dica, lei ha detto una cosa carina, vedi che vuole aiutare una persona appena detto noi difendiamo zingari immigrati, ce la vuole invitare a casa sua in quanto italiano, perché va dice bene, però aiutare una persona va sempre bene, ma a prescindere Baldini, non sto scherzando, niente omosessualità, niente ambiguità, perché c'è anche mia moglie, ecco, ma non abbiamo gusti particolari, te lo posso assicurare. Vabbè, non avete gusti particolari, siete regolari, diciamo, no? Siete regolari. Non regolari, che non so che cosa voglia dire la regolarità. Anche se anche per me non vuol dire nulla. Comunque, ciao Giuseppe, Bologna, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. No, io volevo dire che i grillini mi hanno deluso. Cioè, io un pochino pensavo che questa forma che stava introducendo Grillo sulla politica diretta, il web, le comunità, era una speranza mia, no? Abbandonare la cultura di massa che ci dà la televisione. Non ti sento. No, io ti sento, Giuseppe. Ti hanno deluso i grillini. Perché ti hanno deluso i grillini? Ma perché stanno a seguire quell'altro caprone, cioè difendono a spada tratta la stupidità condivisa. Io ero convinto che questo movimento tramite il web... Sì, ma in particolare che cos'è che ti ha deluso in questo momento? Ma come stanno cercando di difendere Grillo su... come si chiama, su Veronesi, ma succede sempre così, succede, è una cosa che è una cosa che fanno sempre, adesso la puntano sulla disinformazione, la buttano sulla disinformazione, sono gli altri che disinformano. Grillo non ha mai detto, invece ha detto, cioè, Grillo non ha mai detto, si parlava della questione della prevenzione, si parlava dell'eccesso di analisi, tutte cazzate, ha attaccato Veronesi frontalmente, Veronesi, punto e basta. Vabbè, diciamolo, dai, su, no, cioè, la medicina più che Veronesi può andar bene, può essere pure lui truffato Baldino, non lo so, non lo conosco, cioè ha dato prova pure di contra, come si dice, cioè i principi suoi li ha un po' messi in dubbio, però quello che voglio dire io, cioè se siete ignoranti, e lui è ignorante, in medicina non può parlare, cioè la politica dovrebbe essere per gli eletti, per gli illuminati che si rifanno con delle basi sulla scienza, su tutto, no? Non è possibile mettere in discussione queste cose, bisogna ragionare. Va bene, Giuseppe, tanti. Ciao. Allora, succede una cosa incredibile, Parenzo, c'è un boss al 41 bis, o comunque una persona che ha il 41 bis per mafia, che sta ingaggiando una battaglia con l'istituzione penitenziaria, con la... col DAP. Anche, sì, per ottenere che cosa? Per ottenere delle riviste pornografiche. Cioè vuole leggere delle riviste pornografiche. Ovviamente ci sono altre cose che vuole ottenere, che vogliono ottenere altri boss, a difendere altri boss, altri condannati per mafia. A difendere questi signori c'è un avvocato che si chiama Mauro Johnny. Buonasera. Buonasera. Avvocato. Non è solo una rivista porno, sono una serie di riviste, tra le quali una rivista porno. Va bene, fa bene a specificare. Una serie di riviste, ma perché vuole una rivista porno? Adesso, per carità, è abbastanza comprensibile, però. Non saprei, insomma, una persona che è lì detenuta da così tanto tempo e che ci sarà tutta la vita, credo che sia facilmente immaginabile. Non è solo una rivista porno, sono una serie di riviste, ovviamente a sue spese. Beh, certo. Sono detenuti sottoposti ad un regime particolare. Tutto questo materiale viene comunque vagliato dalla censura. Sì. Quindi è un materiale che non può consentire in alcun modo il passaggio di comunicazioni dall'esterno, certo, di qualunque natura. Quindi... Però scusi un attimo, è una richiesta che ancora non è stata accettata. Io voglio. No, è stata accettata. Allora, il punto e perché è non viene introdotta sta rivista? Questo ce lo chiediamo tutti. Il magistrato di sorveglianza ha accolto la richiesta. Ma dov'è rinchiuso questo boss? È rinchiuso al carcere di Ascoli Piceno. Il DAP ha praticamente fatto ricorso al tribunale di sorveglianza competente regionale, sì, sì, e nel frattempo ha sospeso l'applicazione della decisione del magistrato, sì, il tribunale di sorveglianza. Ma con quale motivo? Maturazione, scusa. No, senza nessun motivo. Ha detto che siccome era pendente questo ricorso, il DAP. Vabbè, è una questione burocratica. Poi adesso il tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile. Vabbè, adesso non andiamo nei dettagli, avvocato. La cosa fondamentale. Quindi niente porno per il mafioso. Ci sono due decisioni di due giudici che gli consentono di accedere a queste riviste, ma non solo, perché la questione riguarda anche altre cose, e non vengono applicate dal DAP, secondo noi, in modo illegittimo. E dunque siamo in attesa che il porno arrivi, entri nel carcere di Ascoli. Siamo in attesa che alcune concessioni che sono state fatte al 41 bis vengano applicate. Ho capito, ma perché ce ne sono altre molto interessanti, per esempio il fatto che i 41 bis non possono fare il colloquio con il figlio di 3 anni nell'unica ora che hanno a disposizione durante il mese, tenendolo fuori. Vabbè, d'accordo, ma debbono farlo al di là del certo vetro. Per esempio, che debbono essere denudati prima, sì, di parlare con l'avvocato, con ispezione anale. Per esempio, che non possano accedere. Vabbè, quello è 41 bis. Di questo discutiamo. Ogni però volta... io capisco una cosa: la rivista porno, quale rivista sci? Io sono curiosissimo di questo. Che rivista ha scelto? Neanche me lo ricordo il nome, perché non è stata una. Ma io, scelta solo... perché esistono ancora le riviste porno? E questo è il punto. Guardi, sinceramente non lo so, però è stata una rivista con la quale si è potuto accedere diciamo, a questo beneficio, tutelando il suo diritto di averlo e il diritto legittimo dello Stato di evitare che lui attraverso questa rivista potesse. Comunque, ragazzi, date questa rivista porno, perché uno che ha 41 bis. No, ma insieme ad altre cose. Fare, anche una rivista con rivista di, dell'esterno. Per carità, tutte le riviste possibili in modo che siano controllate, a sue spese, certo, e soprattutto la rivista porno, perché sa che in carcere c'è bisogno pure di queste cose. Avvocato, la ringrazio. Matteo da Modena. Matteo. Bravo. Ah, ciao Cusciani, ciao Parenzo. Ascolta, volevo parlare del reddito di cittadinanza. No, dai, stavo scherzando. Ragazzi, dai, stavo scherzando, era uno scherzo. No, volevo parlare lì del fatto di Rocco Siffredi, lì di quello che gli artista della settantenne, insomma. Io, sinceramente, certe volte mi capita, ad esempio, che ci sono dei particolari, tipo alcuni tipi di tatuaggio che mi piacciono molto in una donna. Ovviamente deve essere sempre accompagnato da un discreto tenaglio. Allora... Io ad esempio una volta ho visto una ragazza, ma questo mi ha tisato molto, con due fiocchi nei polpacci. Ed era, secondo me, un particolare tatuaggio molto bello, molto interessante. Cioè, ti è partita la brocca per i due fiocchi tatuati nei polpacci? Beh, ovviamente avevo anche un culo della Madonna, però. Hai capito? Maniaci, chiamano i maniaci, dai. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Io ti ascolto tutti i giorni. Allora, la trasmissione è bella perché parla di tutto, eccetera. Però a volte un po' troppe parolacce. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? Radio 24. La passione si sente.